America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. Donald Trump si è aggiudicato anche il Nevada, ha vinto con un ampio margine di vantaggio nei confronti di Rubio, oltre il 40%, Rubio secondo, ma appare inevitabile che sarà Trump il candidato per la nomination repubblicana da contrapporre a Hillary Clinton, anche lei inevitabile candidato per la nomination democratica. Altra notizia di ieri, gli Stati Uniti hanno intercettato conversazioni di persone vicine alla presidenza di Silvio Berlusconi, quando era presidente del Consiglio dello stesso Berlusconi. Sono tematiche interessanti, le affronteremo nei prossimi giorni. Oggi vorrei dedicare la trasmissione invece a un convegno che si è tenuto ieri a New York, in cui si è parlato di Italia, di investimenti americani in Italia e di situazioni geopolitiche e economiche del mondo. Sentiamo. Bene, sono con Alessandro Castellano, amministratore delegato di SACE. SACE è la società di credito all'esportazione, che quindi è un forte sostegno per le nostre attività industriali, sia in arrivo che in uscita dall'Italia. E dunque, Castellano, c'era qualche dubbio sul fatto che l'Italia potesse essere davvero un paese interessante come destinazione di investimento. Ecco, cosa risponde a questi dubbi? Ma io ho già risposto che il valore reale italiano è sempre stato e continua a essere migliore del valore percepito. A testimonianza di questo abbiamo ricevuto stamattina una lettera dalla Boeing per il supporto a delle importanti produzioni di pezzi o compositi che verranno poi montati sul nuovo 777 che viene prodotto dalla Boeing. Ah, quindi ci dà una notizia, cioè, avete appena avuto adesso una richiesta, cos'è, una richiesta di finanziamento per questa loro operazione? Abbiamo una richiesta di finanziamento in supporto delle produzioni italiane che verranno fatte dalla Boeing. Lo stesso lo abbiamo avuto qualche settimana fa con un importante accordo che abbiamo firmato con la General Electric, che ha messo al centro come headquarter della loro produzione dell'oil and gas vicino Firenze. Ecco, si è chiuso ieri il convegno dedicato all'Italia, Italian Business and Investment Initiative, e ho organizzato una piccola tavola rotonda nostra qui per Radio 24, per America 24, chiedendo ad alcuni dei protagonisti che hanno partecipato a questo convegno di darci un po' così le loro impressioni, soprattutto a lavori finiti, perché ci sono state delle opinioni contrastanti. Il convegno è partito esprimendo qualche dubbio sul fatto che l'Italia da sola potesse essere davvero una destinazione interessante per gli investimenti, quando invece magari le aziende guardano più da un punto di vista settoriale. Ecco, vi dico quali sono i nostri partecipanti alla nostra tavola rotonda. Abbiamo Donato Iacovone di Ernst & Young, Roberto Napoletano, che è il direttore del Sole 24 Ore, che ha parlato a questo convegno, e Matteo Delfante, amministratore delegato di Terna. Io partirei proprio con Donato Iacovone, perché lei con la sua attività insomma vede anche nei conti di queste aziende, quindi ci può dare un quadro dettagliato. Qual è la sua impressione rispetto a quello che si è detto? Io credo che alla fine, diciamo, i messaggi più positivi sono arrivati dalle imprese, dai settori in cui operano e dal fatto che in ognuno di questi settori l'Italia ha un riconoscimento e ha una positività nella capacità di attrarre investimenti. C'è stata molta più positività nella chiusura di questo evento che forse nella premessa o nell'introduzione. Questo è quello che ci portiamo a casa, che quindi l'Italia, se continua nella strada delle riforme, se riesce a snellire la propria struttura pubblica, se riesce quindi a essere più semplice come paese e a dare risposte più veloci alle aziende, ovviamente è un paese che è capace di attrarre, un paese interessante per molti settori. Ecco, Roberto, nel tuo intervento hai dato un quadro molto interessante, ho visto insomma la platea americana reagiva con un certo interesse, perché hai dato un inquadramento che spiegava come un quarto dell'economia italiana è stato praticamente distrutto dalla crisi finanziaria, un altro quarto fatica, il sud ha perso il 15% del PIL, insomma un paese, tu hai detto, che è come se fosse uscito dalle macerie di una guerra. Ecco, qual è la tua sensazione a chiusura di questi lavori? La sensazione è positiva, però quello che ho voluto dire è che, siccome il Sole 24 Ore si affida molto al linguaggio dei numeri, che l'Italia nella quale sono cresciuto io oggi non c'è più, e che per costruire una fiducia vera, duratura, bisogna avere il coraggio di dire la verità, cioè di dire le cose come stanno. Dentro le cose come stanno c'è però che, pur avendo pagato gli effetti di una guerra mondiale persa, ci sono 400 miliardi di esportazioni che sopravvivono a una cosa senza precedenti. Il governatore della Banca d'Italia, al Forex, ha detto chiaramente che questa crisi è nettamente superiore a quella degli anni 30. Quindi noi dobbiamo fare i conti con questa realtà, anche perché questa crisi ha avuto sui singoli paesi degli effetti molto differenziati e purtroppo l'Italia era, insieme alla Spagna, insieme alla Grecia, tra i paesi che hanno pagato di più. Ma se con tutto ciò tu hai ancora 400 miliardi di esportazioni e 100 di attivo, e questo, diciamo, capitale, che ovviamente deve crescere dimensionalmente, che si deve organizzare, è un capitale molto importante, così come anche il capitale del momento, cioè delle riforme fatte in questa stagione, è un capitale importante. C'è un solo modo per sprecarlo: confondere le aspettative con la realtà. Se noi continuiamo a dire che siamo già correndo, non diciamo la verità. Noi dobbiamo dire che stiamo rialzando la testa e che siamo seriamente impegnati a fare in modo che la rialzeremo, come nel primo miracolo economico, per un periodo molto lungo che viene dopo una crisi molto lunga. Quindi l'Italia ce la può fare, ha risorse che può attrarre investimenti. E noi questo cercheremo, non per fare pro domo nostra, ma di spiegarlo come facciamo ogni giorno col nostro magazine che hai lanciato qua a New York. Sì, Italy Europe 24 è un quotidiano digitale, esce ogni giorno, racconteremo l'altra Italia e racconteremo l'altra Europa. Bene, e vorrei passare così a un esempio, diciamo così, di economia reale. Terna, Matteo Del Fante, è un'azienda che sta facendo benissimo, un'azienda esemplare. Ecco, cosa ci può dire dal suo punto di vista di CEO, cioè di gestore di un'azienda in Italia? È più facile gestirla oggi di quanto non fosse passato? Come sta vivendo questa situazione post-crisi, ma di volatilità? Il convegno era per convincere o stimolare investitori americani a investire le loro risorse in Italia, e io credo che i mercati sono molto efficienti, gli investitori sono molto intelligenti e capiscono perfettamente quello che le singole aziende, dove possono o dove mettono le proprie risorse, fanno. Quindi il nostro compito di aziende è di essere affidabili nella esecuzione di quello che promettiamo. Domande... Ecco, allora raccontiamo in due minuti Terna, così sono le domande, cosa si aspettano e qual è stata la chiave del successo. Terna, come noto, si occupa della trasmissione in alta tensione dell'energia e ha i ricavi determinati dall'autorità indipendente per l'energia che gravano sulla bolletta di tutti gli italiani. E gli schemi che permettono a Terna di avere questi ricavi sono frutto di meccanismi anche tecnici molto complicati. Ecco, le domande che noi abbiamo negli incontri bilaterali, perché poi gli investitori non vogliono fare domande davanti a tutti, ma ti studiano, ti vedono per un'ora esatta da solo e ti vanno in dettaglio a capire due cose. Uno, se quello che avevi promesso l'anno prima effettivamente nei 12 mesi successivi l'hai fatto un po' meglio o un po' peggio di quello che avevi promesso. E due, se quello che stai promettendo per il futuro è credibile oppure no. E noi dobbiamo essere affidabili, perché se le aziende sono affidabili, i soldi e i mercati sono efficienti, arrivano. Mi è piaciuto, e vorrei chiudere con questa piccola nota, l'ultimo commento che ha fatto un signore in sala, che ha ricordato a tutti gli italiani che vendevano con me le proprie aziende di cercare di fare un po' più squadra, di non piangerci sempre addosso, e ha detto: l'Italia è l'unico paese dove, quando li vai a visitare, quando torno in Italia, è l'unico paese dove tutti mi parlano dei problemi del paese e nessuno mi parla delle eccellenze. Ecco, ce ne abbiamo tante di eccellenze, difendiamole. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di Italia, di investimenti, di lavoro, di crescita. Direi dedichiamola a Rihanna, Drake, Work, lavoro. What can I say? Please recognize I'm trying, baby. Send me up there, why, you see me do my da-da-da-da-da-da. Send me by that, why. When you walk out, la-la-la-la-la-la. When the care from my ta-ta-ta-ta-ta. Yeah, okay. You need to get done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas trying to end me. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.